Una buona serata a Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia per un altro 451 frammenti sonori. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta, anche quelli che si ascolteranno in differita, che di fatto insomma giocando un po' sui tempi, ma d'altronde stasera parleremo anche di tempi e tra l'altro avremo modo anche di invitarvi a un concerto che di un grande maestro che lavora proprio sul tempo, sul passare del tempo. E tempi appunto di quelli che ascolteranno tramite 451 frammenti sonori.noblogs.org appunto la trasmissione, quindi in una differita che si vuole poi totale per molti aspetti, visto che insomma la faccenda di utilizzare il blog, lo strumento del podcast, e quindi anche essere sia a livello temporale sfasati con la diretta, e sia anche a livello geografico, quindi per quanto riguarda le frequenze appunto locali di città Fujiko, appunto anche lì sfasati in termini geografici, poi tutto riportato comunque dentro un senso che vorremmo dare come 451 frammenti sonori, oltre che chiaramente 451 intersezioni e il blog chiaramente, che è curato da Lorenzo Albano, mentre 451 intersezioni è curato da Eliseo Scarpa, ma le cose si incrociano anche spesso. Anche questa sera futuri rumori, avremo modo di non allontanarci tanto in termini geografici, visto che andremo a trovare un personaggio piuttosto interessante in quella di Ravenna, ma dopo avremo modo insomma di tirare fuori, di ascoltare soprattutto e strapolare un suo pezzo decisamente interessante. E questa sera vaporizzazioni. Cosa sono le vaporizzazioni? Che cos'è la vaporwave? È una domanda che si stanno ponendo un po' vari critici musicali, anche lettori di riviste, di faccende comunque legate alle musiche, quindi anche tutto quel ballam che c'è attraverso internet, quei forum, quelle discussioni che si aprono molto spesso, insomma, così magari rimanendo in superficie. E forse anche questo poi il discorso della vaporizzazione, dalla superficie, da una superficie acquosa, liquida, e qua c'è chiaramente un'accelerazione, altro termine di questi giorni piuttosto importante per quanto riguarda appunto le musiche che tratteremo questa sera, e non solo. Il dibattito sull'accelerazionismo è acceso, seppur appunto abbastanza, come dire, non mainstream, perché come tante volte ripeto da queste onde, in questa trasmissione, forse il mainstream, o meglio l'underground che diventa mainstream, che riesce a sfondare il mainstream, è una cosa che da molti anni non avviene. Questo per varie faccende e questioni, insomma, anche sollevate tra l'altro da artisti che si muovono dentro quello che possiamo chiamare vaporwave, che stasera appunto chiamiamo vaporizzazioni, quindi partendo dalla società liquida di Bauman, poi appunto va in una sorta appunto di vaporizzazione, quasi a diventare forma astratta, forma più vicina all'aereo che appunto al terreno, anche appunto al fisico, come appunto il liquido. Comunque è chiaro che il riferimento sia quello vagamente così retro, se vogliamo chiamarlo così, e non retro, rappresentante appunto dentro le retromanie ben definite da Simon Reynolds, che oltre a definire quello che è stato un grande fenomeno, ed è stato il primo e veramente anche il più importante critico a definire il post-punk per quello che è stato e non la new wave in generale, ecco, con retromania ha definito anche quello che da qualche anno attraverso un po' quasi tutti gli ascolti, poi in realtà anche quelli tra virgolette alternativi o per certi versi che si vorrebbero ancora antagonisti, anche qua faccenda che aprirebbe veramente mille discussioni, ed è bene insomma che si aprano queste discussioni. E appunto la vaporizzazione a che cosa porta? Prima accennavo a una forma di quasi di astrazione appunto rispetto alla, appunto al vapore, al liquido che attraverso il fenomeno appunto della vaporizzazione diventa una aeroforma, e quindi quello che è di partenza, quindi quello che di fatto fluisce appunto come liquido, poi diventa materiale appunto che sta sopra di noi per tanti versi, no? Appunto aeroforme. E quello che di retro e non di retro, appunto, anzi di retro e non di retro, citando appunto un modo di concepire l'arte retro, e come si faceva qualche decennio fa, nel senso di prendere dal passato per trasformarlo in futuro. Beh, sicuramente artisti che questa sera ascolteremo lavorano con dei riferimenti anche piuttosto non chiari, ma comunque chiarificabili, ecco, potremmo dire, rispetto al passato, a certe musiche che potrebbero essere considerate New Age, certe musiche che sono tanto wave quanto appunto con riferimenti a un certo modo di intendere la sperimentazione tout court, digitali come si poteva intendere nel periodo del grande entusiasmo di internet, quindi delle prime navigazioni, tutto un immaginario anche che viene creato da Daniel Lopatin, James Ferraro e vari, insomma, che questa sera tratteremo, che riprendono quasi appieno quell'immaginario, però appunto con quello spostamento, con quella vaporizzazione che rende astratta e soprattutto sia la faccenda visuale, che tra l'altro è molto connotata a livello musicale con il percorso appunto della Vaporwave, sia in termini musicali, quindi andando forse a creare musiche effettivamente nuove. Chiaro che quando ci si pone appunto in maniera futuribile, ovvio che ci sono delle basi anche piuttosto chiare, o perlomeno appunto chiarificabili, perché poi magari sia James Ferraro che Lopatin non esplicitano, se non per simpatie storiche, i loro riferimenti. In questo senso, quindi, il passato diventa faccenda nuova proprio perché diventa altra cosa, e crea quell'inquietudine che appunto molte dei nuovi manufatti, se potessimo chiamarli così, ma non lo possiamo fare, visto che appunto poi anche in questo senso c'è la vaporizzazione, quindi l'utilizzo chiaramente degli strumenti di internet, e quindi anche il passaggio di queste musiche attraverso internet. Se pensiamo che Chuck Person, che è nickname di Daniel Lopatin, più conosciuto come Onetrix Point Never, e in effetti fa uscire in pochissime copie questo Echo Jam del 2010, disco quasi misconosciuto, anche forse dallo stesso autore, che forse l'ha fatto più in una chiave di divertimento, nel tentare insomma di quasi esorcizzare anche certi mostri che sentirete appunto sonori. Non è soltanto una parodia, perché potrebbe sembrare tale, con queste decelerazioni di voci, tra l'altro conosciutissime dentro il mondo sia della così ricerca sonora per alcuni aspetti, e per molti invece proprio del mainstream, quello anche proprio più tale degli anni, della fine degli anni 70 degli anni 80, con rimandi che però appunto vaporizzando diventano un altro. Tra l'altro, appunto, ricordando, e poi veramente vi lascio a questo Echo Jam di Chuck Person, Daniel Lopatin poi in realtà, e ricordandovi appunto il concerto di sabato 16 aprile organizzato da Musicus Concentus, concerto che forse per molti aspetti è papà di molte di queste musiche, perlomeno ecco, chiarificabile in questo senso può essere certo per quanto riguarda Lopatin, perché insomma William Basinski è sicuramente materia studiata da Lopatin, tra l'altro tutte e due newyorkesi, con un immaginario urbano che per molti aspetti si avvicina a queste città quasi non decadenti, ma quasi in decostruzione, potremmo dire. E in effetti poi il lavoro di decostruzione anche temporale, come accennavo prima, di Miran Basinski è stato assolutamente eccezionale, è uno dei grandi capisaldi delle musiche sperimentali degli anni zero, quel Disintegration Loop, lavoro eccezionale, tra l'altro con quell'immaginario proprio di deflagrazione che c'è di fatto, oltre che di decostruzione, e compiuto nel 2001, nell'11 settembre, non dobbiamo ricordare cosa è successo insomma quel giorno, perché di fatto insomma siamo per tanti aspetti figli appunto di quello che è successo quel giorno lì, e appunto lavoro temporale costruito su i nastri il passare del tempo sul nastro, che diventa quasi una forma di concretismo sonoro, di poesia data dal disfacimento dei nastri, del tempo anche che passa, e che quindi non soltanto crea appunto un immaginario e una memoria, ma anche di fatto una possibilità nuova, appunto lavorando quasi materica. Basinski sarà appunto sabato 16 aprile in Sala Vanni a Firenze, insieme a Musicus Concentus, organizzato anche da Basemental, e appunto avremo modo di vedere Basinski all'azione. Tra l'altro è uno l'unico tour italiano da molti anni che si aspettava il grande artista americano, e porterà appunto un lavoro, tra l'altro dedicato anche a un personaggio a cui era molto legato, ovvero Bowie, e anche all'artista visuale, come d'altronde anche per molti versi Basinski, Deng Tai, che tra l'altro insomma ci ha lasciato anche lui da pochissimo. C'è una sua opera, una sua installazione Shadow a Pechino proprio in questi giorni. Quindi, iniziando questa vaporizzazione, avendo citato insomma questo concerto di sabato 16 in quella di Firenze, uno dei grandi figli di Basinski può essere sicuramente Lopatin, e in questo caso appunto con una strana forma di vaporizzazione. La sentirete, sì, capirete anche dove voglio arrivare.

Oh, Beh, vi siete rimasti più basiti, più schifati, perché ci sta anche che qualcuno si possa schifare di trattamenti di questo tipo, tra l'altro di voci, insomma, piuttosto famose, di pezzi che poi rappresentano per molti versi, appunto, un rimando storico anche molto forte. In questo senso, la poetica, se vogliamo chiamarla così, della vaporwave, dell'accelerazionismo, anche quello più spinto, e proprio di portare a una sorta di estremo, di appunto accelerare tutta la faccenda anche capitalista, proprio legata anche a un immaginario tecnologico spinto al più non posso, proprio per creare una forma di paradosso, quasi una sorta di morte dello stesso sistema, del collasso, appunto, per quasi una sovralimentazione di tutto ciò, potremmo dire, in maniera elettrica, elettronica, digitale, ma non solo, visto che poi ci sono anche proprio faccende che qua magari sono più vicine a certi momenti così del postmoderno, se non altro se ne allontanano, non tanto come a primo impatto come in termini di immaginari, perché insomma mettere una statua greca con uno sfondo digitale sa molto di certe faccende anni 80, latere, un po' spinte. Anche qua forse accelerazionista anche all'epoca, di fatto appunto prendendo quasi la forma di costruzione derridiana, potremmo dire, ma con appunto personaggi come Chuck Person, che poi in realtà insomma è il progetto di Lopatin del 2010, che è rimasto soltanto come Echo Jam volume 1, come Vectroid che abbiamo ascoltato ora con Telnet Erotica, anch'essa uscita poco tempo dopo, sempre nel 2010, quindi primi periodi di questo decennio. Sembra un po' strano quasi parlare di decenni qua, in una sorta di presente, di presentismo infinito che non lascia scampo in termini di immaginari, appunto, di futuro. Ecco, in questo senso i personaggi che questa sera stanno passando hanno un'idea di futuro, perlomeno ambiscono a un futuro e a un suono nuovo, e anche a un completo riscatto rispetto appunto agli strumenti che diventano appunto fini, se pensiamo a come appunto la grande utopia che poi si è trasformata evidentemente in tutt'altro, della emancipazione, se non addirittura della liberazione attraverso gli strumenti digitali. Negli anni 90 si pensava a internet come grande infinita possibilità, beh, poi ci ritroviamo nel 2016 dove, tranne qualche volta parlare insomma da soli di fronte a un computer, magari su qualche social, insomma, facciamo poco altro se non musiche eccetera, che però non si riescono a convogliare, oppure si convogliano e rimangono, come dire, appannaggio di pochi che magari creano micromiti e quindi senza nessun poi riscontro in termini sociali. Ecco, forse quello che si vuole fare anche come trattamento poi della storia, della musica, quindi anche delle faccende più improponibili, più improbabili, musicali, unite in maniera assurda, paradossale, e come abbiamo sentito appunto sia con Chuck Person, con Echo Jam volume 1, che Vectroid con Telnet Erotica, è proprio quello di rimasticare e cannibalizzare in un certo qual modo anche quello che è immangiabile, quello che è indigeribile, e poi appunto sputarlo in maniera innovativa. In questo senso Ramona Andrex Iver ha creato anche un altro dei immaginari logo molto interessanti, Macintosh Plus, in periodi insomma di grande finta, tra l'altro analisi su il personaggio di Steve Jobs qualche tempo, insomma, soprattutto sui cinema, insomma, di tutto il mondo, con due film, ma chissà quanti ne usciranno ancora, e magari anche sotto mentite spoglie appunto legate a lui. Beh, Make It All Plus, di Ramona Andra Xaver, e lavora proprio su quello addirittura primitivo, potremmo dire, quella voglia, quel desiderio, parliamo ancora forse di desiderio appunto negli anni Ottanta, e di futuro che c'era insomma dentro faccende legate alla prima informatica, e soprattutto a dei modelli che volevano essere insomma democratici. Anche qua parola insomma svuotata di significato, però che all'epoca insomma non esisteva di fatto una democrazia informatica, visto che insomma nel mondo delle comunicazioni erano legate appunto alle TV via cavo, magari in America per le radiofonie, che comunque stavano vivendo un grande momento di crisi, per non parlare della stampa che iniziava insomma il suo momento di grande decadenza, che tuttora continua, e appunto c'era questa grande utopia della democratizzazione attraverso appunto lo strumento di internet, soprattutto della PC, della personal computer, e delle comunicazioni appunto che si potevano venire a creare attraverso cellule appunto casalinghe, e non più quindi grandi laboratori, ma appunto faccende che arrivavano nelle case di tutti quanti. Sono arrivate in effetti nelle case di tutti quanti, non si è verificato però quella democratizzazione, che adesso insomma viene quasi resa paradossale appunto dall'utilizzo di tutte le forme in maniera assurda, paradossale, appunto accelerando a più non più il carattere anche finto tecnologico, se vogliamo, se pensiamo appunto a Macintosh Plus, che adesso andiamo a ascoltare con Flora Shop, c'è quasi una sorta di finzione di high tech, come anche d'altronde nelle sue sperimentazioni visive, sembra quasi di vedere un VHS digitalizzato, ecco, più che di vedere un futuro appunto digitale, forse nel voler insomma trovare una specie di grado zero, di azzeramento, di tabula rasa insomma dell'immaginario per crearne un altro. Probabilmente questo spinge anche in maniera accelerata quella che può essere appunto la Vaporwave di Macintosh Plus, che ce l'andiamo appunto ad ascoltare, come dicevo prima, con il suo Flora Shop. We'll be right back. Oh,